Baldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, ben ritrovati per una nuova puntata di Zibaldone qui su Radio Contrabanda. Di che cosa parleremo quest'oggi? Vediamo se lo capite da questo brano un po' particolare. Il nuovo, il vecchio, la Lega, i partiti, la Lega è nuova, i partiti vecchi, la Lega è nuova, i partiti vecchi, nuovo sì, vecchio no, bello e brutto, la Pivetti è bella, la Iotti è brutta, Maroni è bello, Occhetto è brutto, vecchio brutto uguale partiti centralisti, nuovo bello uguale Lega federalista. Tu sai cosa è nuovo e cosa è bello, e sai cosa è vecchio e cosa è brutto. Nel tuo cervello c'è la Lega federalista, nuova, bella. Via dal tuo cervello la partitocrazia centralista, vecchia, brutta. Partitocrazia vecchia, centralista, brutta. Lega nuova, bella, federalista. Federalismo, sì. Centralismo, no. Centralismo, no. Centralismo, no. E beh, insomma, è un inizio un po' particolare di questa puntata del 5 aprile del 2024 di Zibaldone, con cui anche vi diamo il ben ritrovati e il bentornato, perché insomma la settimana scorsa eravamo un po' in vacanze di Pasqua. Ma bando alle ciance, Banzo, bentornato anche a te a Zibaldone, buon pomeriggio, spiega un po' ai nostri ascoltatori con cosa abbiamo aperto questo programma. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti, rieccoci sul pezzo. Abbiamo cominciato con un po' di training autogeno, credo che si sia capito che l'obiettivo era farvi diventare leghisti, perché è anche il titolo del brano, del quale però abbiamo ascoltato solo un estratto. Diventa anche tu leghista con l'ipnosi, che fu allegato all'immortale cuore settimanale di Resistenza Umana nel 1993, un regalo per i lettori. La voce che avete sentito recitare non è quella di Umberto Bossi, è una discreta imitazione, ma è quella di Michele Serra, non accreditato, allora direttore del settimanale, che su queste musiche simili New Age, a cura di Rocco Tanica, diciamo sciorina un po' alcune parole chiave che possono indurre l'ascoltatore a abbracciare la causa del federalismo, e se funzionasse veramente trasmetterla sarebbe pericolosissimo, non ti devo spiegare perché, però ecco, è anche uno spaccato interessante di un momento lontano, perché dal 1993 sono passati 31 anni, e così ci colleghiamo anche al titolo della puntata, che fa parte della nostra serie dedicata a eventi del 1994 e anni limitrofi. Eh sì, 30 anni fa, in questo caso appunto la Lega Nord, parliamo di un partito che proprio in quella fase, quella segnata da Tangentopoli, dalla fine della crisi della Prima Repubblica e l'inizio della cosiddetta Seconda Repubblica, insomma fu un vero protagonista della storia italiana. Abbiamo cominciato questa serie a gennaio per il trentennale della famosa discesa in campo di Silvio Berlusconi, abbiamo continuato il mese scorso con, insomma, per così dire, la fine di Tangentopoli, ma per parlare con lo storico Andrea Marino di Tangentopoli, questo quest'oggi parleremo del fenomeno leghista e lo faremo insieme ad un altro storico, Paolo Barcella, autore di un bel libro uscito per Carocci Editore un paio di anni fa, intitolato La Lega, una storia, che racchiude e raccoglie e riassume e analizza la storia praticamente di 4 decenni di Lega Nord e ormai Lega per Salvini Premier. Tra l'altro proprio tra pochi giorni sarà il quarantennale dalla nascita ufficiale davanti ad un notaio della Lega Lombarda di Umberto Bossi. Banzo, prima di parlare però con Paolo Barcella ci andiamo a sentire un altro brano, lo lascio presentare a te, un brano di 2 anni prima rispetto a Rocco Tanica e Michele Serra con cui abbiamo aperto la puntata, il 1991, e dobbiamo andare un po' più a sud ascoltando la voce di Pino Daniele con Oscar Raffone, ma c'è una ragione per questo. Beh, sì, è un brano che diciamo, è molto più famoso di quello che abbiamo appena ascoltato, e la ragione per la quale ve lo trasmettiamo è che è la prima canzone italiana che cita esplicitamente la Lega nel testo. Forse ricordate Pasquale che è nato a Cefalù, però è anche una canzone che menziona la Lega definendola una vergogna, quindi diciamo che la prima apparizione di questo movimento o partito in una canzone italiana non è delle più lusinghiere. Pino Daniele, Oscar Raffone. Thank you. dirette abbiamo in collegamento con noi Paolo Barcella, lui insegna storia contemporanea all'Università degli Studi di Bergamo, ha tantissimi libri e saggi di storia all'attivo, storia del lavoro, storia delle migrazioni, ma anche un paio d'anni fa è uscito questo suo interessantissimo volume intitolato La Lega, una storia, che appunto fa la storia ormai quarantennale, ecco, in questi giorni possiamo dire quarantennale di questo partito politico. Do subito il benvenuto e il buon pomeriggio a Paolo Barcella. Buon pomeriggio, grazie a voi per avermi invitato e ospitato in questa trasmissione. No, grazie a te Paolo, un piacere averti per parlare appunto della Lega in questa puntata, no, che si inserisce in un ciclo su 30 anni fa. Ecco, 30 anni fa, proprio più o meno in questi giorni, dopo la vittoria alle elezioni di fine marzo del 94, ecco, la coalizione guidata da Berlusconi riusciva a trovare una quadra e a formare il primo governo in cui entrava per la prima volta anche la Lega Nord, movimento che tra l'altro proprio partito politico che in questi giorni compie 40 anni di vita, no? La Lega Lombarda fu fondata proprio nell'aprile del 1984 davanti a un notaio. Ecco, la prima domanda che ti faccio, a partire anche da tutto quello che racconti nel tuo splendido libro, è insomma, che cosa possiamo dire come bilancio di questi 40 anni di vita di un movimento che quando fu fondato, no, nei primi anni 80, ecco, sembrava una cosa più che altro folcloristica, che invece si è convertito in un attore importante della storia politica italiana dell'ultimo trentennio? Ma allora, la domanda è interessante, si potrebbero dire davvero tantissime cose. Sicuramente questa forza politica nasce, come abbiamo detto, insomma, nel 1984 come Lega Lombarda, anche se era già da qualche anno, dalla fine del 79, che diciamo nelle regioni del nord, in particolare in Veneto, in Lombardia, ribolliva, diciamo così, nella pentola della politica qualcosa. La Liga Veneta era stata già fondata, il primo congresso nel dicembre del 79, Bossi già si era mobilitato, candidato, aveva incontrato persone e ragionato su queste formazioni politiche nuove che avrebbero potuto nascere. La cosa interessante è, a distanza di 40 anni, è vedere come questa forza politica sia stata capace di interpretare tante fasi diverse, proponendosi come una forza all'altezza di situazioni molto differenti, con proposte politiche sempre mutanti. Abbiamo avuto una fase localista, abbiamo avuto federalismo, autonomismo, abbiamo avuto tante parole d'ordine diverse, tante prospettive politiche diverse. Evidentemente una formazione politica, quella della Lega Lombarda, che ha avuto proprio come elemento distintivo, veramente caratteristico, quello di avere una fortissima capacità, come dire, di riconfigurarsi a seconda delle fasi. Quindi è proprio questo l'elemento che ha consentito a questa forza di arrivare a 40 anni di distanza ancora in una posizione centrale, rilevante, nonostante tutte le appunto le trasformazioni, i cambiamenti a cui abbiamo assistito dagli anni 80 ad oggi. Ascolta, è un'altra questione che si collega, no? Per tornare anche appunto ai 30 anni fa. Ecco, come spiegare il successo della Lega? Voglio dire, in un nord che era in genere la maggioranza democristiana, ma con anche dei territori con una forte tradizione socialista, ma anche del PC. Insomma, come spiegare l'ingresso di una forza nuova tra il 1987, quando insomma i primi successi locali in Lombardia e anche già prima in Veneto Veneto della Lega e poi soprattutto ecco nel 90, 91, 92 quando c'è quell'exploit con poi nel 93 anche la conquista del comune di Milano. Come spiegare che il Nord a 30 anni di distanza ecco si convertì, insomma almeno per un periodo, in un feudo leghista e ancora lo rimane soprattutto in zone della Lombardia e del Veneto a tutt'oggi? Ma allora, sicuramente, diciamo così, le vicende della Lega Lombarda, come anche le vicende della Lega Veneta, vanno interpretate anzitutto a partire da una riflessione sugli anni 70 e sugli anni 80, da una riflessione su quegli anni come anni di crisi, da un lato dei partiti politici, una crisi che esplode in modo evidente nel 92 con tutto quello che sappiamo, ma che ha una sua storia precedente, con una fase di indebolimento di quelle organizzazioni di intermediazione, partiti politici, sindacati, ma anche con una crisi più generale, una crisi che potremmo considerare da reazione al cosiddetto shock del globale degli anni 70. Cioè una crisi legata appunto a una fase in cui i mondi rurali, i mondi della provincia italiana, i mondi della provincia settentrionale italiana devono fare i conti con gli esiti, con gli effetti di questo shock del globale, quindi con una trasformazione generale della società, con la fine dei mondi della civiltà contadina cattolica, con la messa in discussione di alcuni equilibri, di alcune gerarchie soprattutto. Sono anni in cui ci sono stati tanti diversi movimenti, pensiamo soltanto ai movimenti e alle organizzazioni che possono essere ricondotte all'ambito del femminismo, quindi quelli che mettevano in discussione le strutture patriarcali della società italiana. Ecco, per molti aspetti queste formazioni erano formazioni che partivano dal un sentimento di carattere conservatore o di carattere reazionario, da un desiderio di ritornare in qualche misura a una posizione di ordine e di difesa all'interno delle proprie comunità, di ripristino all'interno delle proprie comunità di quegli equilibri e di quegli ordini che sembravano essere stati radicalmente messi in discussione, che venivano messi radicalmente in discussione dei processi, della modernizzazione, da quello che stava avvenendo avanti. Questo è un aspetto molto importante. E poi appunto la crisi dei partiti politici, l'allontanamento progressivo da quelle forze che avevano saputo interpretare i grandi cambiamenti e le grandi trasformazioni degli anni 50, 60 e che nel corso degli anni 70 cominciano invece ad essere più in difficoltà a interpretare le fasi nuove e che negli anni 80 lo sono in modo sempre più marcato. E poi evidentemente la crisi di Mani Pulite che crea le condizioni per cui ci sia una sorta di vuoto che la Lega riesce a riempire, un vuoto che riguarda soprattutto il settore moderato e conservatore dello spettro politico. A questo proposito c'è anche un altro elemento, no? Quando si parla di Berlusconi si ricorda spesso, no, il linguaggio e la retorica dell'impolitico, no? Lo chiamava così, se non ricordo male, Ilvo Diamanti, no? Quel rompere, no, con il politichese, il linguaggio della classe politica e classe dirigente della Prima Repubblica. Ecco, Bossi a suo modo aveva anticipato Berlusconi in questo, no? Pensiamo insomma la canottiera di Bossi, il linguaggio addirittura volgare, il Roma ladrona, no? E la Lega ce la dure, tutte queste cose. Insomma, secondo te quanto ha pesato anche questo elemento, no? Nel consenso che Bossi ottenne appunto tra la fine degli anni 80 e gli anni 90? Fu un elemento importante o in realtà era solo una nota di colore? O rappresentava anche qualcosa che aveva a che fare con un cambio nella società italiana? Ma io penso che sicuramente quello sia stato un elemento molto importante, un sintomo di diversi processi che erano in corso. Voglio dire, quando poco fa parlavo della crisi dei partiti, questa secondo me è rilevante anche in quanto sostanzialmente i grandi partiti di massa italiani, prendiamo appunto soprattutto la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista Italiano, avevano un progetto pedagogico in qualche misura, avevano e ritenevano di avere anche una funzione educativa, di traduzione di alcune questioni e di guida della popolazione a cui facevano riferimento, degli strati, dei segmenti di popolazione a cui facevano riferimento rispetto ad alcuni temi, ed il linguaggio era considerato assolutamente un elemento importante, rilevante. Avevano le loro organizzazioni, i loro diciamo strumenti anche di formazione, per la formazione dei quadri e tutto quanto. E la popolazione però di per sé non è che non conosceva il linguaggio o non adoperava nei contesti, diciamo, della vita quotidiana il linguaggio che invece sarebbe diventato quello proprio di Umberto Bossi e della sua formazione politica. Semplicemente, diciamo così, quel linguaggio non era il linguaggio contemplato dalla politica, dai discorsi politici di quelle formazioni, il Partito Comunista, la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, che invece, diciamo così, avevano avuto anche una funzione pedagogica, insomma, in qualche misura di educazione, di formazione. La loro crisi è stata anche la crisi di tutto questo, e Bossi è stato sicuramente il primo in Italia, diciamo così, a liberare invece quegli spiriti, quel linguaggio, e a portare quel linguaggio nella sede politica. Il linguaggio che in precedenza era un linguaggio che si diciamo adoperava nelle sedi della vita privata e dello spazio diciamo pubblico ma non politico, diventa e viene invece portato da Bossi anche a quel livello. E sicuramente Umberto Bossi in quella fase riuscì a partire anche da un utilizzo di un linguaggio nuovo, di retoriche nuove, a rimarcare la propria differenza rispetto a un mondo politico-partitico che era entrato in crisi e che in qualche modo aveva messo una larga parte della popolazione italiana nelle condizioni di volersi allontanare da quella cosa. Sì, da quella tradizione, certo, da quella maniera di fare politica. Ascolta, un'altra questione importante, tu dedichi un capitolo del tuo libro a, insomma, intitolato Né di destra né di sinistra. Ecco, la Lega si presentava in fin dei conti così alle origini, no? Insomma, adesso tutti sappiamo dove si colloca la Lega in Italia e in Europa, non ci sono dubbi, è un partito di estrema destra, o secondo alcuni preferiscono l'accezione destra radicale, comunque insomma alla destra estrema, per capirci e perché i nostri ascoltatori ci capiscano. Ma all'inizio, insomma, tutti citano ancora quella famosa frase, no, di D'Alema, la Lega come costola della sinistra. Ecco, la Lega degli inizi cos'era? Era un partito di destra radicale, era un partito appunto né di destra né di sinistra? Qual è la tua opinione al riguardo? La mia opinione al riguardo è molto chiara, è molto semplice. Io credo che la Lega sia sempre stata una formazione politica sostanzialmente conservatrice, che su alcune questioni, soprattutto a partire dal modo di porsi di alcuni suoi esponenti, assumeva anche istanze, faceva proprio anche istanze di carattere reazionario, chiaramente reazionario. E in questo senso una formazione politica, diciamo, che possiamo sicuramente, chiaramente collocare sul versante della destra, in questo senso, nel senso che parliamo di una forza sostanzialmente di carattere conservatrice, conservatore. Il punto è che in che senso lo era? Lo era perché appunto le sue istanze erano, diciamo, istanze che sostanzialmente proponevano la difesa di un territorio, la difesa di una comunità da forze ritenute dannose per la salute del corpo sociale di quelle comunità, individuate diciamo dall'esterno. In particolare agli inizi erano gli immigrati meridionali, quelli tenuti portatori di tutte le potenziali di tutti i potenziali germi dannosi e destrutturanti rispetto agli equilibri delle comunità del settentrione. La difesa, appunto, l'idea di una proposta politica che puntava alla difesa di quelle comunità, di quei territori, dalla penetrazione di agenti esterni, l'idea di una comunque difesa che era anche il tentativo di riportare a un ordine, nel senso che vi dicevo prima, quando parlavo dello shock del globale e di una forza che in qualche modo reagisce a questo, facevo appunto esattamente riferimento a una forza che in qualche modo puntava alla ricostruzione di un equilibrio, di un ordine sociale che era evidentemente di carattere conservatore rispetto ai processi che erano venuti avanti nel corso degli anni 60-70. Certo, poi questa formazione politica era considerata, diciamo, non chiaramente schierata sull'asse destra-sinistra rispetto alle forze precedenti, perché parlava un linguaggio nuovo, un linguaggio diverso. Dopodiché chiaramente diciamo si è creata un'ambiguità sul tema destra-sinistra legato al fatto che questa formazione era una formazione che da un certo momento in poi si comincia a riconoscere essere capace di sedurre anche alcuni strati del mondo dei lavoratori italiani. Si comincia a riflettere sul fatto che questa formazione fosse in grado di sedurre anche lavoratori sindacalizzati. Tutti i ragionamenti, ve li ricordate, sui lavoratori del nord che avevano la doppia tessera CGIL, Lega Lombarda. Ci sono degli studi interessantissimi da questo punto di vista di Vittorio Moioli, uno dei primi ad aver studiato per davvero la Lega Lombarda, già dalla fine degli anni Ottanta. Era un bergamasco, non a caso, in un momento in cui la Lega sostanzialmente era un fenomeno quasi solo bergamasco. Ragiona esattamente su questi aspetti, cioè sul fatto che questa formazione era in grado di attrarre anche il voto di un pezzo di mondo del lavoro che in anni precedenti aveva preferito formazioni di sinistra e che addirittura in una sua parte era sindacalizzata. Bene, il punto però, voglio dire, questo è un nodo sul quale si potrebbe aprire un convegno, nel senso che il voto operaio non è necessariamente un voto di sinistra, voglio dire, non penso di dovermi perdere troppo a lungo in questo momento su questo. Era chiaro che un pezzo di mondo del lavoro in quel momento, dentro i processi che così abbiamo sommariamente descritto, trova in quella forza una forza capace in qualche misura di interpretare quelle che sembrano loro problematiche del momento. Ho ancora il tempo, in radio è sempre tiranno, ma avevo tre domande da farti, vediamo se ce la facciamo cercando di essere entrambi un po' telegrafici, so che non è facile. La prima è, la Lega è stato definito, no, più volte il sindacato del territorio, no, o anche l'ultimo partito novecentesco in Italia. È ancora così o negli ultimi 10 anni, con la trasformazione dopo l'arrivo di Salvini alla segreteria, la trasformazione anche dello stesso nome in Lega, no, per Salvini Premier, eccetera, insomma, non è più così? In realtà la Lega è tutta un'altra cosa, anche organizzativamente, rispetto a quello che era prima. Da questo punto di vista, sicuramente la fase salviniana è stata una fase che ha completamente trasformato il partito esattamente da questo punto di vista, da questa prospettiva, nel senso che fin, diciamo, che cosa poi voglia dire sindacato del territorio, anche qui ci sarebbe molto da discutere, però sicuramente era una forza politica che si basava sul lavoro di una militanza che era attiva e operativa nei territori, c'erano delle sedi, ci sono stati degli sforzi, parte del partito, della sua segreteria, dei suoi esponenti, per intercettare, diciamo, elettori e per incontrare gli elettori e per mobilitare in qualche modo l'elettorato nelle sue zone. E soprattutto c'è stato un lavoro importantissimo dal loro punto di vista, ovviamente, di costruzione, diciamo così, di una di un mondo di amministratori locali. C'era una scuola per amministratori locali che si sviluppa in seno alla Lega già all'inizio degli anni 90. Tutta questa cosa è stata liquidata in epoca salviniana, quando Salvini sostanzialmente scommette su un'altra cosa. Non è più, a partire dal territorio, dal rapporto con il territorio, da quel tipo di mobilitazione, con quel tipo di mobilitazione che occorre costruire il consenso, ma entra in campo tutto il discorso che riguarda la comunicazione politica online e il suo modo di interpretare la comunicazione politica, che passava in primo luogo attraverso quello strumento. Ci sarebbe appunto qui da aprire una parentesi su questo, però l'esito è stato che quel mondo, il mondo, diciamo, della prima Lega, della Lega di Bossi, da questo punto di vista è andato sostanzialmente svanendo. E un libro di Ilvo Diamanti degli anni 90 si intitolava Il male del Nord, se non ricordo male, no? E poneva appunto l'accento sulla Lega, no? Insomma, come la Lega aveva dato centralità alla questione settentrionale. Era da oltre un secolo che si parlava di questione meridionale, dai primi anni 90 si parla di questione settentrionale. Ecco, la domanda che ti volevo fare è: ma come è cambiato il Nord in questi 30 anni buoni ormai di presenza sul territorio, nei governi, nelle amministrazioni locali della Lega Nord e ormai della Lega Salviniana? Insomma, il Nord è cambiato anche grazie, o meglio dire a causa della Lega, è diventato un po' un'altra cosa rispetto a 40 anni fa, oppure in realtà la Lega è stata solamente il megafono di una parte di quel Nord e gli ha dato una rappresentanza politica? Ma la Lega sicuramente è stata il megafono di una parte di settentrione, una parte di mondi di impresa soprattutto settentrionali, diciamo, ha favorito, io penso, l'avviarsi di una fase nuova che appunto toglieva l'attenzione dai problemi e dalle questioni che riguardavano il meridione d'Italia, dalle problematiche del meridione d'Italia, per guardare invece ai problemi del Nord, riducendo soprattutto, perché poi la questione cruciale da questo punto di vista in fondo è stata quella fiscale, quella del trasferimento delle risorse. Quello che è accaduto in questi 30 anni è che progressivamente sempre meno risorse sono andate trasferendosi dal nord verso il sud, e per certi versi si è avviato un percorso al rovescio in questi ultimi 30 anni. Dopodiché, che cosa sia cambiato nel settentrione dal punto di vista della vita e della qualità della vita della gente che ci lavora, è difficile ricondurlo nello specifico alla, diciamo, a un, in poche parole, alla Lega. Sì. Però sicuramente, diciamo così, abbiamo assistito dentro appunto a quei discorsi che tornano adesso mentre si sta discutendo di autonomia differenziata, eccetera, eccetera. Poi la Lega è stata interprete di questo, di una fase in cui si è smesso di guardare i problemi del meridione d'Italia, la necessità, diciamo, di andare incontro ad alcuni limiti e problemi di quei territori per trattenere risorse al nord, sostanzialmente. Ultima domanda, e diciamo a domanda risposta, telegrafica se riesci. Nel 2012 la Lega visse una profonda crisi, il cerchio magico di Bossi, e insomma sembrava un partito finito, quasi che non riuscisse ad ottenere nemmeno rappresentanti nel Parlamento. Poi nel 2017-19 grande exploit di Salvini, supera il 30% alle europee di 5 anni fa. Adesso nuovamente la Lega in profonda crisi. Salvini è messo, no, in questione da molti dirigenti veneti ma anche lombardi. Insomma, la Lega è un partito con futuro secondo te, o è un partito invece che sta vivendo una crisi che potrebbe portare addirittura alla sua scomparsa? Ma sai, io penso che sicuramente il partito sta attraversando una fase di crisi importante. È una fase di crisi che ci dicono i numeri, voglio dire, un crollo dai 34 punti percentuali delle europee del 19, i pochi punti percentuali di queste ultime tornate, evidentemente indicativo del fatto che quello che era stato costruito in quel momento da Salvini tra il 17 e il 19 è collassato. Dopodiché io credo che ci siano margini per una, diciamo, sopravvivenza. Dipenderà però da, appunto, da come si assesteranno tanti equilibri che riguardano, appunto, anche come dire, la competizione, che poi in questo momento è la questione cruciale con Fratelli d'Italia. Rispetto alla capacità di diventare la forza politica di riferimento del mondo conservatore, di larga parte del mondo conservatore italiano. Salvini era riuscito nell'impresa a un certo punto, adesso non lo è più, adesso è Fratelli d'Italia che è in grado di fare questa cosa. Però sai, anche tutto così rapido, così in questa fase politica, non penso che dal crollo degli ultimi mesi si possano individuare ragioni per dire che siamo alla fine di questa, sì, di questa, sì, storia. Potrebbe essere, vedremo. Ma non penso che sia. Le incognite sono tantissime in questo periodo storico, forse più che nel passato. Paolo Barcella, autore di La Lega, una storia, è stato il nostro ospite quest'oggi qui a Zibaldone. Paolo, davvero grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Quanti ne tasse ne guai, Badania. Tutti felici padroni operai, Badania. Ma non si muore cantando va pensiero, Badania. Ti dico è vero, è proprio tutto vero. E quindi, ma che Padania, ma che Padania dai, ma che Padania, tirati assieme dai. Campanile del tuo berrione, parli dei baschi in ogni frangente, ma con i baschi tu non c'entri niente, vai, quanti vai. Accorsi che a Scozia ed Irlanda, vai, le relazioni ma per te non cambia, vai, una vai. Nazione non si può imitare, vai, e tanto vai. Meno la si può inventare, vai, ma il tuo padrone di certo sa bene, che st'invenzione a lui certo conviene, vai, tanto vai. Denaro non è mica un movente. Tasca sempre la stessa gente. Allora, ma che Padania, ma che Padania dai, ma che Padania, tirati assieme dai, ma che Padania, ma che Padania dai, ma che Padania, tirati assieme dai.

sono dei vincioni son, e spendi il negron in forca al negron, in forca al negron, in forca al negron, in forca al negron. Meloni, Molise e Basilicata, ma non è il caso di parlare. E allora, grazie all'intelligenza artificiale, lei diventa una vera e propria nave cargo di cioccolata. Il ministro degli esteri Tajani, questa è fantascienza. Il presidente degli Stati Generali per l'ingiusta natalità, servono 10 milioni di professionisti nelle scuole. Semplificazioni in arrivo, in farmacia si faranno le nozze combinate. Nordio alla Camera, entro maggio, nelle celle piccole e sovraffollate. Si dormirà di meno, ma avremo più denaro per i controlli. Sulla super bonus, ingegnosa truffa sventata a Ischia. Un finto carabiniere cercava di convincere al telefono alcuni anziani di avere ripreso la caccia agli elefanti per sconfiggere la mafia, ma le vittime non abboccano, chiamano Francesco Schiavone, detto Sandokan, e lo fanno al nuovo direttore creativo di Valentino. In Europa si torna a parlare di leva obbligatoria. Il ministro Crosetto dice no, servono fascisti professionisti. Secondo Putin, può essere che abbia ragione. Mosca alza il tiro. Già da domani ci sarà molta più guida in stato di ebbrezza. La Gran Bretagna annuncia che le indimenticabili 29 settembre, Io ho in mente te, Bang Bang, sono state scritte da Papa Bergoglio. Il celebre Gesù Cristo dice: non so come abbia fatto. E sono tornate anche le ultimissime del nostro caro Fausto De Salvia, che salutiamo e ringraziamo. Banzo, alcune notizie che insomma ci lasciano un po' a bocca aperta, per così dire. Ma guarda, non so, tu potevi immaginare Bergoglio che vergava con grande maestria classici del beat, ho controllato all'epoca circa trentenne, insomma, è sconcertante, però non gli si può dire che sia manchevole di duttilità e versatilità, ecco. Assolutamente, poi insomma, solo un breve commento sui fascisti professionisti che insomma sono richiesti a gran cassa da molti. Anche da un ministro, appunto, cosa dire? Ha ragione, sì, mi sembra, cioè, ha ragione, no, non ha ragione, ma è sincero, ecco, quello sicuramente. È lo spirito dei tempi. Comunque, insomma, sono tornate le ultimissime, noi siamo davvero agli sgoccioli di questa puntata, ma vogliamo ancora mandare in onda un po' di cose. Però prima, Banzo, due parole sul brano di Caparezza, che anche quello è una bella satira sulla Lega all'epoca secessionista. Caparezza è sempre maestoso nell'uso delle parole, segnalo soltanto una tripla rima fenomenale, Senatur per l'Arbur Cavour, è veramente vertiginosa, è un brano del 2006 dal disco Abemus Kappa, questo per la precisione, ma prego Steven. Sì, adesso andiamo ad ascoltarci un altro brano che non ha niente a che fare con la Lega, ma ha a che fare con un concerto che si terrà proprio questa sera qui a Barcellona, in Plaza Reial, la famosa Sala Jambori, alle 21.30, sarà in concerto Vanessa Bissiri, che presenta il suo nuovo disco, il primo da solista, Empatica. 21.30, Sala Jambori, Se Perfuma, Itoma, questo è il brano che vi proponiamo. Contando dedos de manos, trenzas de pelo, te conocí. Buscando compañía, un rezo a ojos cerrados, yo te toqué. Me doy el tiempo de esperar un loco extraño suceder y con mis manos voy. Lo que no me dejas ver, y acariciando tu fiesta ligera, donde mi alma se perfuma y toma. Y acariciando tu fiesta ligera, donde mi alma se perfuma y toma, se perfuma y toma. Tu rostro en un beso ajeno, la misma piel, conozco y me desvelo. Andando al paso del aire, a ojos abiertos me imaginé. Me doy el tiempo de esperar un loco extraño, sus averías. Con mis manos voy a tocar lo que no me dejas ver. Y tu fiesta ligera, donde mi alma se perfuma y toma. Y acariciando tu fiesta ligera, donde mi alma se perfuma y toma, se perfuma. Cuéntame cómo se calman las preguntas, si hay una técnica especial para dejar de hablar. Ponme la mano en la frente, estoy loca, los mejores tragos de ti en mi boca. Se equivoca el viento, se equivoca, se equivoca, se equivoca. He acariciado tu fiesta ligera, donde mi alma se perfuma y toma. He acariciado tu fiesta ligera, donde mi alma se perfuma y toma, se perfuma. Cuéntame cómo se calman las preguntas, si hay una técnica especial para dejar de hablar. Ponme la mano en la frente, estoy loca, los mejores tragos de ti en mi boca. Se caen cerezas del cielo en mi boca, se equivoca el viento, se equivoca, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Signor Forti, signor Forti, come sta? Indovini chi è? Indovini chi è? È Bruno, il suo Bruno, Bruno e Bruno, i due fratelli comici. Uno scrive, l'altro dice le battute. In questo caso l'altro sono io. Signor Forti, buona Pasqua, buona Pasqua. Sono qui che la chiamo da un uovo di Pasqua per un esperimento sociale, un social New Easter experiment. Quanto tempo si può stare dentro un uovo di Pasqua senza respirare? Signor Forti, signor Forti, si ride per qualsiasi cosa, si fa ridere, facciamo ridere, tutto è una risata, si dicono le battute tipo questa, senti, senti questa, cosa diceva sempre l'ultimo dei Moicani, cosa diceva? Diceva, aspettatemi. Signor Forti, la saluto, ancora buona Pasqua, ci vediamo presto a Zimbaldone. Vabbè, insomma, è tornato Bruno Banzo con un messaggio in segreteria. Mancava, io credo, da un anno e mezzo. E che dire, tu vuoi fare tu un commento telegrafico? Perché io sono rimasto un po' senza parole. Sono svenuto, Steven, dall'emozione. È difficilissimo articolare qualcosa, ma vorrei solo sapere se nel frattempo, perché ricordiamo oggi è il 5 aprile, sei uscito dall'uovo di Pasqua, perché sono preoccupato per la sua salute, forse più di quando non lo sentivo, ecco. Boh, vabbè, lo scopriremo magari prossimamente, magari tra un anno, perché vediamo se Bruno riapparirà. Noi stavamo anche bene senza di lui, però siamo anche contenti che sia tornato. Comunque, bando alle ciance, siamo davvero a fine puntata, ci resta solo il tempo per l'ultimo trago, ossia un brano italiano interpretato in lingua spagnola da altri artisti che siano appunto della penisola iberica o della regione latinoamericana, come si suol dire. E Banzo, quest'oggi cosa mandiamo? Andiamo in Messico per una cover abbastanza le nuvole surreale. Anche? Come? Le nuvole anche o no? No, no, beh, Messico, non so che tempo faccia, ma ecco, perché è una cover improbabile, dicevo, perché abbiamo gli 883 rifatti da una boy band, quindi la canzone è Nord Sud-Ovest Est, che però diventa en los espejos de un café, cioè negli specchi di un caffè, nel senso di bar, evidentemente. Dico una boy band perché i membri dei Cairo, questo è il nome del gruppo, erano tre figaccioni galattici, quindi molto molto lontani dalla poetica degli 883, che invece erano dei tipi normalissimi, ecco. E questo gruppo, che è durato fino al 2000, però cambiando completamente la formazione nel frattempo, era l'idea di un produttore discografico italiano, Giampiero Felisatti, che quindi attinge a brani di 883, ma anche di Vallesi e Leandro Bazzotti, e crea questa cosa qui che adesso vi facciamo sentire e speriamo vi possa colpire, perché piacere non lo so, ma colpire è probabile. E vabbè, noi ci salutiamo con Nord, Sud, Ovest, Est in salsa di tabasco molto messicano. Ci ritroviamo venerdì prossimo. Buona fine settimana, buon venerdì sera. Banzo, grazie di essere stato con noi. E come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván, alle 17.55 diceva tutti i venerdì: comunque, sia in Italia che in Spagna ci sono partiti politici il cui colore dominante è il verde, e nessuno dei due è un partito ecologista. Qualcosa è andato storto. Assolutamente sì. En los espejos de un café. Bye bye, buon venerdì sera. ¿Cómo fue? Me miraste yo también. Y fue imposible ya retroceder. Largas piernas que hoy por hoy hacen que me falte el aire. Y el detalle de una boca criminal, toda miel. Nos miramos otra vez. Y el mundo empezó a desaparecer. Los reflejos de tu pelo negro. Desde un taburete azul monopolizas el aire y la luz. Quiero saltar sobre ti igual que un gato salvaje. Cuando no me vea nadie soy así. Déjame, sé que no voy a caber en IG6 si me dices ok. El contraste de tu bronceado con mi timidez acerco, te lo doy, ay, ay, ay. Empezamos a charlar y siento que me has vuelto a hipnotizar.